Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola L'Atlante di Smeraldo ed è considerato il nuovo Harry Potter. L'ha scritto l'americano John Stevens, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Silvia Piraccini. Il libro fece scalpore alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna dell'anno scorso, dove i diritti vennero venduti a 35 paesi, Italia compresa. Protagonisti di questo nuovo fantasy sono tre fratelli, Kate, Michael ed Emma, che passano da un orfanotrofio ad un altro finché arrivano in un posto molto strano. Da qui la nascita di un mondo parallelo di pura fantasia. Ma ecco come Stevens parla della nascita dei suoi personaggi. Io ho due sorelle nella vita, un maggiore e un minore. Allora, quando ho scritto questo libro, ho basato i personaggi nel libro proprio sulla mia famiglia e anche una sorella che è chiamata Kate. E ho preso le caratteristiche delle mie sorelle e le ho messo in questi personaggi. E anche Michael, che è il fratello, è basato più o meno su di me, perché ci piacciamo i libri e ci piacciamo i nani, navi? I nani, perché quando io sono stato giovane, un centinaio fa, mi è piaciuto tanto i nani, quando ho letto The Hobbit, qualcosa così. Gli elfi ho pensato che loro fossero molto perfetti, troppo seriosi, ma i nani a loro piacciono bere, mangiare, chiacchierare. Allora quel caratteristico ho dato a Michael, Michele. Tutto inizia la notte di Natale, che è la notte in cui praticamente i tre bambini vedono per l'ultima volta i loro genitori. Che cosa accade quella notte? I bambini sono stati seguiti da una forza malvagia, e i genitori vogliono che i bambini possano crescere a diventare questi eroi per salvare il mondo. Ma anche io volevo mettere l'inizio del libro sulla notte di Natale per dare un tono del libro, perché quel senso della magia, quel senso dell'antico viene un po' del senso del Natale, per me almeno. E anche l'idea più forte per me nel libro è il senso della famiglia. E per me la notte di Natale è sempre la notte per la mia famiglia di essere insieme. Questi bambini passano da un orfanotrofio ad un altro fino a che arrivano in un posto veramente strano. Che cos'è questo posto? Questo posto è l'orfanaggio di Edgar Allan Poe. E ho dato questo nome all'orfanaggio perché mi piace tanto Edgar Allan Poe, ma anche mi piace tanto il suo senso del soprannaturale, perché nei racconti di Poe il senso degli spiriti è molto, molto più reale per me che in molti libri fantastici, quando c'è qualcosa di soprannaturale, è molto grande, è molto teatrale, ma un po' il soprannaturale viene nascosto, viene dentro le cose della vita e viene veramente dal cervello umano. E allora mi è piaciuto sempre questo senso. In questo orfanotrofio c'è anche uno strano direttore. Chi è il dottor Pym? È un mago, ma anche è un personaggio misterioso per il romanzo. E i ragazzi non sanno che pensare di dottor Pym. E mi è piaciuto sempre questo senso di un personaggio molto potente, ma anche molto misterioso, perché i ragazzi non sanno... possiamo avere la fiducia in questo uomo, perché la fiducia per loro è una cosa molto difficile a dare a qualsiasi persona. In questo romanzo quindi c'è una realtà e poi c'è un mondo fantastico. Sì, infatti, quando io sono stato giovane ho amato questo libro The Lion, the Witch and the Wardrobe, Narnia Books, da C.S. Lewis, in cui loro vanno in un wardrobe. in un guardaroba e loro scoprono questo mondo incredibile. E quando ero giovane, quando sono andato alla casa di un amico o qualcuno, io sono andato sempre alla guardaroba per provare a scoprire quest'altro mondo. Allora, per me, quel senso di un mondo fantastico che vive proprio accanto al nostro è una parte della mia vita, del mio punto di vista mondiale. Com'è nata l'idea di questa storia? Da che cosa sei partito? Quattro anni fa ho visto una foto di io e mia sorella quando siamo stati giovani e ho avuto un senso della nostalgia perché io vivo a Los Angeles e le mie sorelle e i miei genitori vivono a Virginia, che è 3.000 miles da Los Angeles, e veramente mi mancava la mia famiglia. Allora ho visto questa foto e veramente io volevo un libro che mi porterà fuori nel tempo o dietro nel tempo al punto in cui la mia famiglia era ancora insieme. Allora ho scritto un libro per quella ragione. A che pubblico è rivolto questo romanzo? Per me tutto, veramente, perché quando l'ho scritto veramente per me stesso. Allora, per un uomo di 35-36 anni a quel punto, perché ho scritto un libro che volevo leggere io. Questo romanzo è stato paragonato da molti a Harry Potter. È un paragone che ti fa piacere o ti dà fastidio? Ah, sì, sì, sì, mi piace tanto. Come no? Io amo molto i libri di J.K. Rowling e Harry Potter mi ha fatto una grande influenza. Anche, secondo me, su qualsiasi persona adesso, oggi, scrive i romanzi fantastici, loro hanno un debito a J.K. Rowling perché è veramente, le ha cambiato il mondo fantastico. Allora, mi piace tanto. Che rapporto hai con la scrittura quando scrivi? Io? Soprattutto nelle mattine. Io mi alzo molto presto, alle 4:30, e scrivo fino al pranzo e poi faccio un piccolo siesta e scrivo un po' più nel pomeriggio. Ma per me, io sono, nella mia esperienza, gli scrittori scrivono nelle mattine o scrivono alle notte, e per me io scrivo nelle mattine. Io mi sento molto più fresco a quel punto. Fresco, no, that's not right. A quel punto è il mio cervello non è così disturbato come nel pomeriggio. So. Questo romanzo è stato un caso editoriale. I diritti sono stati venduti a diversi paesi contemporaneamente. Ti aspettavi questo successo? No, veramente. Quando io ho scritto il libro, io pensavo che mia moglie lo leggerà e forse alcuni amici. Ma questo è veramente una cosa incredibile che non ho mai aspettato. C'è un libro o un autore che consiglieresti ai nostri ascoltatori? Sì, certamente. Veramente il libro che ho letto che mi ha dato all'inizio l'idea voglio scrivere un romanzo fantastico è The Golden Compass da Philip Pullman. La bussola d'oro da Philip Pullman è un romanzo incredibile che amo molto. Anche c'è un altro libro che ho letto recentemente che mi è piaciuto molto, Jonathan Strange and Mr. Norrell da Susanna Clarke, che è una scrittrice inglese, che è un libro storico e anche della fantasia, che è veramente fantastico. Questo romanzo è solo una prima puntata? Sto scrivendo adesso il secondo libro nella trilogia. Allora, spero di finirlo presto. E questo era John Stevens, autore del fantasy L'Atlante di Smeraldo. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.